ma nessuna sorgente di bellezza sorgeva dalle tue protese braccia. Che io non suonassi con cura e con diligenza, che io non suonassi, che io non pregassi, che io trovassi stendardi alti e infiammati, rialziamo all'incontro della primavera con la bestia, al volo dell'aeroplano con il conducente, al sigillo con la carta sdrucciola che lo mantiene, stendardi voglio innalzare in terribile strofinamento di beltà e rancore, in tardiva piramide d'estate, in testardi annunziamenti di potenza, in semplice testardo amore, in difficoltosa preghiera, in tradotta pena, in chiaro rancore, in delicato strato d'avvenire contenuto senza aspettativa nel presente, in stanco pomeriggio, in vera battaglia per una banda di giovani amici banditi, vestiti come la disastrosa notte che furono stracciati i piombi, furono assassinate le salme, furono depositate le bonomie.